eliminato dei guai. E infatti, la prima Russia va. Ma è stato un fruscio, cosa hai detto Doni? Eia! E infatti va a poi da tutto a chi. Se non diceva a me manca Edo di Cibu. Ha giubilato un pacidore, mi dici sì. Chi fa se ne passare la corrente baru per amplificatori. A chi io nell'antenna mia va giù l'amplificatore, no? E l'alimentatore ce l'ho a casa. Quindi l'ho attaccato al falo dell'antenna del baracchino, il partitore. Ho comprato 20 metri di cavo, lui me l'ha buttato da su e gliel'ho collegato. E pare che sia contento. E se non è contento, che giù Baredu. No, gli ho detto nulla, non gli ho detto. Tutti i canali li ripeti, a chi io va giù l'antenna chissà di proprio barul digitale terrestre, mi. Cioè, e quindi i canali già li vede tutti. Giovanni. E beh, Carlo. Ciao Tonino, buonasera, sei entrato anche tu. Ti ho sentito da prima ma ero con le mani occupate e non potevo rispondere. Stavo smontando i piedi di una rete e ho smontato un letto. E dopo ho portato tutto giù in garage. Ah, quindi sei in macchina, infatti il segnale è un po' più basso. E infatti da Emanuele era prima. C'era prima, l'ho sentito. Bene, me da Manuele, sempre dicendoti male, mi che sei attaccato al frigorifero. Già va bene, già va bene. Vai Natali. Allora, non convai ne comprarli una bicimenta, il ciudonino. Dimmi Tony, no a lavoro sino alle 13, faccio dalle 5 alle 13 e un'altra volta quando capita, non ci sono problemi, io per queste cose sono sempre disponibile. Ciao Tonino, ciao Emanuele, buon proseguo, dai, avanti Carlo, ma Gianni non si è sentito. Non è uscito ancora, ah sì, doveva uscire in macchina, forse non ha attaccato la radio. Ciao Tonino, ciao Emanuele, già siamo qua quando volete, siamo in radio, dai, vai Natali. Tappa, oh iaia, ma già entrerà, ha detto che entrava, io intanto ho già mangiato, che quando è entrato Tonino e Emanuele stavo mangiando. No, io ancora no, perché mia moglie è uscita e doveva andare dal parrucchiere e non è rientrata e quindi aspetto che rientri lei, poi ceniamo più tardi. E quindi ero solo soletto qua, vabbè, già c'è anche mio figlio, facendo questi cambiamenti, dai, in camera del mio figlio, che dobbiamo, il 23 mi consegnano il letto nuovo, quindi ho messo a posto la parete, adesso ho smontato tutto, il materasso è nuovo di zecca, ne ho due nuovi, uguale, belli, di quelli ortopedici, quindi quella spesa me la sono evitata, sono un bel po' di soldi in meno, almeno 300 euro di materassi in meno risparmiati, anche perché sono una figata, perché praticamente sono sfoderabili e quindi tu la fodera la metti in lavatrice, ti viene fuori perfetta e poi dentro c'è la gomma piuma, tutti i vari strati, capito? Ed è facile sfoderarli, per cui quelli durano un bel po' di anni, mi auguro. Riprendi pure Natali. E infatti c'è nuovo, almeno gli fai la cameretta nuova, così. Sì, esatto, un po' stiamo rinnovando ogni tanto qualche pezzo nuovo, dai, perché quando si invecchiano mobili o si rompe il letto, insomma, poi alla fine stai aggiusta e fai prima comprare la roba nuova e buttare la vecchia, tanto se no ce l'hai sempre in mano, così almeno per un po' di tempo speriamo di non dover toccare più niente, dai. Sì, infatti. No, io mangio verso quest'ora, verso le 7, perché dopo 2 ore devo misurarmi la glicemia e farmi l'insulina, capito, per la notte. io adesso sto controllando, perché anche io prendo un farmaco che mi sa che oggi, stamattina l'ho preso, e stasera invece lo dovevo prendere dopo pranzo, ma sono uscito e me ne sono dimenticato, me lo prendo adesso. Avanti, chi sei? Giovanni? Sì, Giovanni, io ti ascolto qua con una radio 4, Santiago 7, dove ti trovi? E niente, sono con Natalino in questo momento. Giova, fai un altro passaggio perché c'è propagazione, un segnale ti ha coperto. Sì, vai, ho detto, dove ti trovi, Giova, in camper? Sì, positivo, mi ascolti adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Sì che ti ascolto, sì che ti ascolto, il segnale è 6 adesso, capito, tra il 6 e il 7, è un po' oscillante, però ti ascolto bene, Giova, e dove sei? Sono a casa sul campo, ho cambiato il barattino, tanto per farmi una, dai, volevo sapere se usciva questo. Sì, già sta uscendo, non è troppo forte di segnale di radio, però io ti sento bene. Adesso ti rilancio Natalino e vediamo un po' se ti sente lui. Sì, sento che parla, ma è incomprensibile, non so dove sia lui. È in camper a casa sua, però ha cambiato la radio, capito Natalino? Sento che parla, ma non è intelligibile la modulazione, capito? È troppo basso. Esatto, sì Giovanni, Natalino non ti sente bene, sente che c'è qualcuno sotto che parla, però il segnale è troppo basso, c'è un po' di QRM, qualche segnale di propagazione forte, arriva ogni tanto, ma io già ti sento bene, vai pure Giovanni. Ciao Giovanni, quando vuoi siamo qua, ciao Giovanni, ti saluto Natalino adesso, alle prossime, Natali, Giovanni ti saluta, riprendi pure. Saluto di Giovanni, se mi ascolti, io purtroppo non riesco a sentirti che c'è un po' di QRM qua. E ha detto che stava solo facendo una prova, è entrato un attimo, capito Natali, evidentemente sta o cambiando apparato eccetera, gli ho detto che già siamo qua noi in Ciaramezzo, quando vuole, già, infatti altre volte lo sentivo molto più forte, da casa sua qua arrivava abbastanza bene, e invece era cambiato radio e stava provando appunto questa radio qua. E infatti anch'io lo sentivo molto più forte di così, poi c'è un po' di QRM e quello che mi ha fregato. Esatto, QRM ce n'è, col bel tempo un po' si alza, capito, il QRM. Stamattina volevo uscire, ma ho detto e poi se c'è freddo, perché sto temendo per la gola. Un po' di influenza c'è in giro, anche mia moglie era mal di gola, gli è preso da freddore, gli sono usciti degli herpes vicino al labbro, insomma, come esci ci sono sbalzi di temperatura, alla mattina presto fa freddo, poi a mezzogiorno ci sono 15 gradi, se non stai attento a coprirti e scoprirti quando devi, ne prendi un malanno. Lo so, purtroppo è così, e cosa vogliamo fare? Io ho questo catarro che non mi vuole andare via, ce l'abbiamo preso questo malanno io e Franco assieme, che eravamo assieme lì, siamo andati lì da Decathlon e stava facendo un freddo, ma freddo, e ci ha beccato di brutto. Franco ancora non riesce a parlare, parla tutto rauco. Lo so, purtroppo è così, ce n'è tanta gente che ha problemi appunto, prima la gola, e magari uno o due giorni magari ti fa anche spossatezza, un po' di dolori, poi ti passa ma ti lascia la tosse, capito? E ci vuole un po' di tempo a smaltirla del tutto, Natali. Sì, infatti, io ho preso quello sciroppo, la tachipirina mi sono preso, ma non mi ha fatto nulla. Vediamo come va a finire. E io lo stesso, al lavoro, infatti sto usando ancora la mascherina sui posti di lavoro, è fortemente consigliata, ma il datore di lavoro ce lo dice, perché così non facciamo malattia, capito? Perché comunque ci passano un sacco di persone e noi molte volte più di uno se ne ammala, che si prende contagi, perché la gente magari starnutisce, tocca gli oggetti, le carte d'imbarco che poi le prendiamo in mano noi, capito? E tante cose, per cui meglio avere la mascherina, se non altro è un filtro, almeno al lavoro stiamo cercando ancora di metterla, quella FFP2. Io capito, beh, certo che non è una cosa allegra, con questi malanni. C'è gente che se ne va in giro con la febbre perché magari aveva il biglietto, giusto per non perderlo, si riempiono di tachipirina e cose del genere, se ne stanno in giro magari e contagiano qua e là tutti quanti, capito? Perché uno quando è influenzato se ne deve stare a casa almeno 2-3 giorni e poi magari esce. Invece non sono tutti così e purtroppo i contagi dell'influenza mi sa che stanno mettendo un sacco di vittime quest'anno. Sì, infatti. Sì, quel giorno ci ha ucciso a me, a Coso e a Franco. Dovevamo fare delle commissioni, siamo passati lì e c'era molto freddo il giorno, mi ricordo, e ci ha fregato di brutto. Infatti, settimane scorse le temperature erano piuttosto rigide, in questi giorni si sta meglio, infatti ho visto che io esco la mattina presto e non c'è neanche ghiaccio, quando arrivavo alle 5 in aeroporto c'erano tutte le macchine dei parcheggi sulla capota e sui vetri, un dito di ghiaccio e sull'erba, sul prato che c'è, tutto ghiacciato, la brina perché c'era il cielo sereno, la temperatura scendeva anche a meno 2, meno 1, capito? E poi verso mezzogiorno l'una, quando esci ci sono in macchina 17 gradi, 18 gradi ad Alghero, e poi verso Sassari scende a 15, capito? La macchina sotto il sole è rovente già, perché il sole sta iniziando a essere più caldo, però alle prime ore del mattino, maledizione, già fa freddo, quindi se non ti copri ti frega. Io lo credo. Io stamattina ho telefonato al CUP, ho avuto una botta di dietro, diciamo così, perché avevo un esame da fare ad Alghero proprio il giorno 21 agosto e me l'hanno anticipata al 2 marzo a Platanona, non mi sembra vero. Ma lo lasciate il bianco. Dillo mia Gianni. Ero 3 ore cercato di entrare, invece avevate il dito facile. Ehi, già, io ti avevo sentito sotto Natalino, avevo sentito che qualcuno aveva insomma parlato e già era mia intenzione adesso infatti di far entrare. E dove sei? In Girella? Sto andando a prendere aereo, dai. Devo andare un po' lontano. Ehi, a dove sei? In che zona già? No, adesso sono al chilometro, dai. Tu qua stai arrivando a bomba. Avanti, Claudio, buonasera. Attento uno, se si ascolti il doppio room, buongiorno, anzi buonasera. Sì, Claudio, Gianni è in macchina, in barra mobile, sta andando a prendere la moglie, c'è Natalino con me e prima era entrato anche Emanuele, Tonino e non so se c'è qualcun altro che vuole entrare, lasciamo un attimo di bianco, vediamo un po' se c'è qualcuno sul 10. Riprendi tu, Natalia, a salutare a Claudio. Io non lo sento, sento qualcuno che parla ma non è decifrabile qua, arriva troppo basso. Salutamelo Carlo. Ok, riprendi tu, dai. Sì signore, Claudio, Natalino mi ha detto che non ti sente, capito? Sente qualcosina sotto ma non arrivi forte. In effetti anche il tuo segnale oggi da me è Santiago 7, capito? La radio è radio 5, già ti sento bene di radio, però il segnale è un pochettino basso, capito? Vediamo se ti ascolta ancora Gianni. Avanti Muros, avanti! sento sempre anche bene, anche bene. K, mi sto spostando, dai, sono quasi arrivato sulla 131. Va bene Gianni, già siamo qua. Claudio, sì, è aumentato un po' il segnale, ma stava un pochettino saturando appena appena la voce. Prima era più chiara. Ma è regolato un pochettino, adesso hai migliorato senza dubbio, adesso radio super 5, buona. Natali, lo senti adesso Claudio? È basso sempre, lo sento io, mi si rompono le scatole, è zona negativa per me lì Muros, capisci? Ho capito Natali, dai. Sì, Natalino ha detto che ha sempre difficoltà a sentirti Claudio, perché forse dove lui con l'antenna un po' zona negativa per Muros, anche se altre volte mi sa che ti ha sentito meglio, forse magari uscivi con più potenza, magari con un'altra radio, non lo so. Comunque già va bene qua, arrivi molto bene da me Claudio. Santiago 8, però hai di nuovo regolato e la radio prima era più nitida, adesso un po' appena appena satura. Sì, adesso ha migliorato di nuovo. Sì, no, ma qua senza dubbio arrivi bene, perché io sono più in alto di Natalino e non ho mai avuto problemi a sentirti anche con segnali più bassi, capito? Anche col portatile una volta ti ho sentito, se non sbaglio, sarà forse 2-3 mesi fa, era forse fine autunno, qualcosa del genere. Sì, mi ricordo. Io ho preso un portatile, però purtroppo è bellino, la batteria dura un sacco di tempo, esce bene in FM, ma in AM riceve benissimo, ma non trasmette, cioè non trasmette, è come se non fosse, se fosse in un'altra banda, capito? Come se fosse in banda laterale, e quindi diciamo lo sfrutto poco, se no anche io a volte uscendo l'avrei usato anche il portatile, invece niente, finché sono con l'FM solamente non lo sto utilizzando, ma prima o poi me lo procuro uno buono che esca bene in tutte e due le bande, capito? Qualcosa di pratico e di compatto, insomma, sto cercando. Sì, esatto, infatti questo l'avevo preso io perché c'era la possibilità anche di usarlo in macchina, in quanto ha la batteria slitta che si carica direttamente collegata all'accendisigari e poi c'è l'attacco dell'antenna esterna, capito? Invece se con FM, capito, non trovi mai nessuno e quindi in macchina lo sfrutto poco e niente. Adesso cercherò di trovarne uno buono, capito, e che funzioni bene sia in AM che in FM. Forse c'è qualcosa della President di decente e di recente anche. Ho capito, sì, le radio insomma particolari molte volte non le trovi subito, quindi è così la passione. Esci che diamo spazio anche a Natalino e vediamo se c'è qualcun altro sul 10. Vai Natalino. Di me ve ne siete dimenticati. Non ci siamo dimenticati. Bello, beh, hai capito? Vabbè dai, io me la sto chiudendo che devo fare un qualcosa qua, dai. Ci sentiamo alle prossime, dai, QRT per me, salutoni a tutti. Grazie per le quattro chiacchiere, QRT. Ciao Natali, ci sentiamo, dai. Ciao Natalino, buona serata, alle prossime. Vai Claudio per Natalino che ti ha salutato. Adesso ti rilancio Gianni, sì Gianni già ti sente sempre, mi sa, vero Gianni, mi confermi, vai pure. Io sono lontano, però lo ascolto sempre, anche se è un po' saturo. Ha detto Gianni che ti sente sempre, anche se ti sente un po' saturo Claudio, magari forse il microfono, abbassa un pochettino la preamplificazione, forse va meglio. Perfetto, lascialo così, Gianni adesso lo senti meglio? Carlo, sono in manovra, scusa. Eia, perché Claudio ha regolato, forse adesso lo dovresti sentire meglio, quando puoi facci sapere. Io adesso lo sento perfetto come ha regolato. Sta facendo manovra Gianni e quindi è impossibilitato adesso a rispondere, dai, già ci farà sapere dopo. Però come l'hai regolato, adesso hai abbassato i watt, va meglio. In effetti prima era appena appena satura per me e per Gianni più satura, capito? Carlo! Sì Gianni, un attimo. Sì, riprendi Gianni, eri tu che chiamavi sotto. Adesso mi sono fermato, dai, che sono arrivato, ma è presto ancora, sono arrivato troppo presto. Come sta arrivando di segnale? Qua Santiago 9 già, bomba, Radio 5. Claudio, come lo senti adesso? Ancora saturo o va bene? Adesso per me va benissimo, facci sapere già. Prova qua a vedere come ti ascolto. Scappa. No, adesso ti ascolto bene di radio, però sei un po' bassino perché qua c'ho QRM. Ti ascolto ma capisco le parole, però non sei molto forte, dai. Sono fuori Sassari, capito? Non sono a Sassari. Sì, confermo, radio bella, pulita, Super 5 qua, senza più segnale saturo, dai. Qua mi arrivi forte. Vai Gianni. Anche tu qua arrivi forte Carlo, anche la radio ce l'hai bella potente, bella forte. Questo apparato poi riceve molto bene, dai. Diciamo che l'antenna va bene perché ti posso dire che sono praticamente all'incrocio della morte, dai, per andare solo sui Bidriazzi lì. Sì, ho capito. No, qua sta arrivando forte, si sente molto bene. Claudio, tu come lo senti Gianni? Qua per lui Santiago non si muove. Tu invece non lo muovi niente Santiago qua, e forse è negativa come zona. Tu non lo fai muovere nemmeno Santiago, non si sta resta ferma. Forse non lo so se era Mario che voleva entrare, lasciamo un attimo di bianco, avanti sul 10, avanti, chi c'era sul 10? Oh, ho sentito una modulazione quando parlava Gianni e poi adesso non si sente niente. E me l'avrò portata presso io. Tu hai sentito, Cla? E vabbè, dai, si farà risentire. Niente. Quindi stasera casalingo qua in attesa che si faccia l'ora di cena, ma andrà a finire per le 8:30 almeno. Gianni lo stesso è fuori e andrà a cena più tardi. Tu hai cenato, Cla? I tattoni mi ricevette? Sì, sempre ho sentito qualcuno sotto, se vuole entrare siamo qua. Ciao ragazzi, buonasera da Tony, cambio, mi ricevette? Buonasera Tony, sì che ti ricevo io, forte e chiaro, qua da Sassari, Carlo da Questa, in compagnia di Claudio da Muros e Gianni Doppio Room, che è fuori città però. È una prova radio per vedere un po' se mi ricevevate. Claudio, mi sente lui da Muros? Claudio, lo sentivi Tony da Muro, da Sassari? Tony, hai sentito Claudio? Io ho sentito Claudio, ma qualcosina ho capito, comunque è molto lontano. Se ti sento benissimo, era una prova radio, e poi per sapere come stavate tutti quanti, insomma. Tutto bene, facendo le solite quattro chiacchiere della sera. Ti rilancio Gianni, che è fuori Sassari in barra mobile, vediamo se ti sente lui. Vai Gianni per Tony. Io lo saluto, ma Tony lo sento pio, non capisco cosa dice, dai, lo sento bassissimo proprio, basso. Salutalo da parte mia, ma se non mi sente, però io lo sento bassissimo. Okapa, l'hai sentito Gianni, Tony? Io ho sentito un po' disturbato perché è fuori, ma ho copiato, diciamo, abbastanza bene quasi tutti. Era una prova radio e poi per salutarvi, ripeto. Io adesso lascio e scendo dalla macchina, saluto te, un abbraccio, Claudio, Gianni, chiudo e alla prossima ragazzi. Benemera Tony, ci sentiamo alle prossime, quando vuoi siamo qua. Riprendi Claudio? Sì. E belle cose da tenere, dai, se poi è anche in buono stato, è ovvio che ci tieni. Sì, adesso come hai regolato Claudio, il microfono è perfetto, non sta saturando, qua sì, Santiago 9 adesso va benissimo, è meglio di così, forse gli altri hanno più difficoltà, ma sono in zone, diciamo, fuori Sassari con l'antenna in macchina, per cui, però Gianni ti sente. È ancora fuori Sassari. Adesso te lo rilancio Claudio. Vai Gianni per Claudio. Ehi, dai, ciao Claudio, dai, anche io adesso chiudo perché sta per uscire. Quindi mi tappo tutto, metto a posto l'antenna e via. Vi saluto tutti cordialmente. Ciao Claudio, ciao anche a te, Carlo e tutti gli amici che stanno ascoltando, dai. QRT per me, riprenderò da casa sicuramente, dai. Sì, va benissimo Claudio, lasciala lavorare ogni tanto, che male non gli fa, dai, a metterla in funzione. Se le lasci troppo ferme poi anche l'umidità, diciamo, se le può rovinare con il tempo, l'inutilizzo, capito? Invece ogni tanto è sempre meglio farle girare, tu che hai la possibilità di farlo, hai lo spazio eccetera, fai benissimo. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Riprendi qua, non c'è nessuno. E questa cos'è? AM solo oppure c'è FM questa che stai usando? Avere qualche radio in più non guasta, dai. Io non ne ho tante adesso, in passato ne ho avuto perché avevo lo spazio per tenerle. Adesso ho fatto una piccola stazione in cucina per fare quattro chiacchiere quando c'è la possibilità, perché la passione mi è sempre rimasta della radio, però capito, non mi posso lamentare. Adesso sto trasmettendo con un President 1000 di quelli piccolini che stanno nel palmo di una mano, che lo uso in macchina questo, perché la mia si è completamente spenta, non so cosa sia successo, e quindi adesso la devo riparare. Ho capito, beh certo, quando c'è quella la passione, non senti neanche il freddo, dai, a volte è così. No, io non mi posso lamentare del freddo qua in cucina, già c'è un caldo, anche perché abbiamo i termosifoni accesi la sera e sono in magliettina praticamente. Prima stavo facendo alcuni lavoretti a casa e niente, poi per riposarmi così ho detto accendo un po' a fare quattro chiacchiere, anche se ho visto che l'ora sta passando e sono le 8 e mi sa che adesso organizzo un po' il tavolo perché sono in attesa che rientri mia moglie e poi preparo un po' qualcosa per cena, Claudio. Sì, no, gli amici di Ozieri, mi ricordo Luigi, l'avevo sentito sia in AM che in FM che in banda laterale, avevamo fatto delle prove, avevo sentito anche l'amico di Bonnannaro, non mi ricordo, ce l'ho scritto il nominativo ma adesso non me lo ricordo, e un altro amico sempre di Ozieri oltre Luigi, e anche lui non mi ricordo il nome, diciamo che anche loro mi sentivano da qua con Santiago 5, però erano giorni che c'era poco QRM, ma in banda laterale non avevamo problemi, capito? Diverse volte ho collegato Ozieri e Bonnannaro. A te il mic, Claudio. Sì, sì, esatto. Giovanni, sì, ci avevo parlato anche lui di Ozieri, sì, Bonnannaro, e poi avevo sentito anche Enrico diverse volte. Prima lo sentivo spesso, lui entrava anche sul 10 qualche volta, è entrato. Era tra Trinità d'Augusto e l'Isola Rossa, quelle zone lì, ci ho parlato diverse volte con lui, però ultimamente io sarò almeno un mesetto che non ho le bande laterali perché ho la radio ferma e quindi sono sempre relegato tra AM e FM, capito? E i segnali non li sento, i loro, se sono su quelle frequenze alte. Sì, io purtroppo adesso sono un po' relegato a questa radiolina e senza le bande laterali, in effetti sei un po' un pesce fuor d'acqua, perché là fai ascolto, fai qualche DX e quindi già senti gente diversa. Sì. No, l'amico di Luras non mi è mai capitato, ma immagino che Luras, diciamo, non credo che sia difficile da collegare. Magari se capita, adesso spero nel giro di 2-3 settimane mi facciano sapere qualcosa della radio e vediamo quando me la restituiscono, capito? Sempre che si possa aggiustare, perché dovevano cercare qual era il problema, e altrimenti me la prenderò nuova se quella non è più riparabile, capito? Sì, positivo, certo, e io non vedo l'ora infatti di riprendere. Anche io a quelle ore solitamente guardo televisione o mi vedo un film o qualche serie TV, capito? E quindi mi rilasso un po', non è sempre che modulo dopo cena, però ogni tanto, forse d'estate di più, perché d'estate io vedo molto meno televisione, capito? Quindi magari è più facile nel periodo estivo, capito? Come si allungano anche le giornate, eccetera, che ci sia la possibilità di sentirsi, dai. Adesso vedo quanto prima e mi auguro che mi arrivi la radio, insomma, e se no ne prenderò un'altra nuova, sempre però con le bande laterali, se no così sei troppo relegato, a volte entri sul 10, non c'è nessuno, e quindi giri, vai là e magari la speranza di fare qualche collegamento e fare quattro chiacchiere interessanti, dai. Non che sul 10 non se ne facciano, perché già parliamo un po' di tante cose, io già mi diverto anche qua sul 10, però capito, spaziare e andare anche da altre parti è sempre piacevole, conoscere anche persone di altre parti. Niente, farò subito un tentativo quando avrò la radio su quelle frequenze là, magari vedrò di entrarci la sera più tardi dopo cena e magari la lascio in ascolto e vedo un po' se sento modulare qualcuno, già entrerò. Bene, bene da Claudio, si è fatto ancora più tardi, le 20:15, vero? Io adesso ascolto il tuo finale e niente, e poi ce la risentiamo alle prossime, perché davvero si è fatto un po' tardi. Grazie delle informazioni, delle notizie che ci siamo scambiati, ci sentiamo presto, è sempre un piacere sentirti Claudio. Ascolto il tuo finale e poi chiudo tutto e vado a preparare la cena. Ciao, buonanotte, alle prossime Claudio, buonanotte.